Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Quanto le nostre vite sono vite che non possiamo permetterci. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, parafrasando una citazione del grande sociologo Zygmunt Bauman, apriamo questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. È lo spunto per parlare di uno spettacolo teatrale che ha molto a che fare con i temi a noi più cari, temi quali consumo critico, uso responsabile del denaro e trasparenza. Focus sui trend dedicato invece ai consumi domestici, quando la casa fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Si allunga l'elenco delle acquisizioni europee dell'emiro del Qatar. A due settimane dall'ingresso nei magazzini francesi Printemps, la famiglia reale, già proprietaria della Maison Valentino e di quattro hotel di lusso in Costa Smeralda, si aggiudica il Four Seasons di Firenze. Dopo la musica, sarà la moda il prossimo passo di Shazam, l'app di riconoscimento musicale più famosa al mondo con i suoi 300 milioni di utenti. Secondo indiscrezioni, starebbe infatti studiando la possibilità di applicare al mondo fashion lo stesso meccanismo delle canzoni. Attraverso una foto si potrà individuare il marchio dell'abito indossato persino da un passante. La creatività dei giovani per aiutare le donne dell'Africa. È il progetto di Accademia Italiana for Africa. Un'idea nata dalla scuola di moda e di design fiorentina, supportata dal gruppo La Rinascente e da Vogue Italia. I pezzi disegnati dai giovani talenti della scuola verranno prodotti nei laboratori artigianali africani di Fashion for Development, per poi essere venduti nei negozi La Rinascente di tutta Italia. Riduzione degli acquisti, ritorno al fatto in casa e pianificazione. Sono 9 su 10, dice una ricerca del Cermes Bocconi, le consumatrici che, a causa della crisi, tagliano le spese all'insegna dell'autolimitazione e di un consumo più responsabile. Penalizzate vacanze, uscite con gli amici, abbigliamento e cura del corpo. E 4 donne su 10 dichiarano di aver ridotto l'uso dell'auto. Christian Lacroix firma una collezione unica per la Maison di moda Schiaparelli, in fase di rilancio dopo l'acquisizione da parte di Diego Della Valle. Lo stilista francese ha annunciato i primi modelli per l'estate 2013, una reinterpretazione dello stile che rivoluzionò la moda degli anni 30 e 40. La borsa della spesa. Chi è che si è indebitato per andare in vacanza? Chi è che ha usato casa sua come un bancomat? Chi è che, quando gli hanno offerto il 20, il 30% di interesse per un titolo, non ha detto niente e ha messo i suoi soldi? Chi è che, nonostante si sappia che molte, moltissime banche fanno dei giochi poco trasparenti, speculativi, continuano a mettere i soldi lì, senza far domande? Jack. E Jack, guardate, sono io. Siamo noi. E questo è un bene. Perché se noi non c'entrassimo niente con tutta questa storia, se non avessimo nessuna responsabilità, allora non avremmo neanche nessun potere. E invece noi il potere di fare qualche cosa ce lo abbiamo. Questa era Pop Economy, una conferenza spettacolo che racconta le cause della crisi attraverso i suoi effetti sulle vite di tutti, di chi in vacanza non ci va più, delle case che non si possono più comprare, di un pianeta che si sta consumando. Un teatro di impegno civile pensato come strumento di educazione finanziaria per rendere più consapevoli risparmiatori e consumatori. È andato in scena qualche giorno fa al Salone del Risparmio. Una delle tappe del tour in giro per l'Italia. L'inizio della storia è il fallimento della Lehman Brothers nel 2008, ci racconta uno degli autori che è anche attore in scena, Alberto Pagliarino. Lo spettacolo è la storia di Jack. Jack è il buon padre di famiglia americano e Jack da un giorno all'altro decide di comprare casa, cioè fare un mutuo. Smetterla di essere un americano come tutti gli altri, cioè l'americano che va in affitto, che fa un trasloco una volta ogni 3 anni,

da un lato voglio che non contribuiscano alla speculazione, non voglio essere complice di un sistema del quale sono vittima, e dall'altra all'opposto voglio che contribuiscano a costruire un mondo più giusto, più equo, ambientalmente sostenibile. Essere e avere. Per il focus sui trend di questa settimana parliamo di casa, di consumi domestici. La domesticità, meglio la sua riscoperta, è una delle tendenze del momento. Parliamo di casa come ambiente di autoproduzione, come ispiratrice di nuove atmosfere per negozi, musei, spazi di intrattenimento e come nuova leva per il marketing. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dai cibi fatti in casa, passando per orti e pollai domestici, ai supper club, il fenomeno delle cene tra sconosciuti in case private, dagli house concerts alle vendite a domicilio fino all'homeschooling, l'educazione dei figli in casa. Insomma, la nuova domesticità spopola e se ne sono accorti libri, blog, riviste, film, trasmissioni TV e ovviamente marketing e pubblicità. Patrizia. Sì, la casa oggi è molte cose insieme, è un contenitore di sperimentazioni trasversali alle varie esperienze di vita e di consumo. È un luogo che sta evolvendo con l'evolvere della società stessa e dei nuovi stili abitativi. Infatti anche in termini fisici, proprio di struttura architettonica, un fenomeno come il co-housing ci dice di una trasformazione della casa da tana, tra virgolette, familiare, cioè rifugio del cerchio parentale più stretto, a luogo più aperto, allargato, comunitario, che rispecchia appunto le nuove famiglie per scelta, in cui la condivisione di servizi, spazi, tempi, eccetera, tra nuclei diversi è appunto la premessa. La casa diventa sempre più social, più porosa, un po' senza pareti, diciamo così, e affacciata sulla rete, così come sullo spazio pubblico esterno come nuovo spazio di socializzazione. L'ecosistema digitale ovviamente è molto influente sulla ridefinizione anche delle esperienze relazionali entro le mura domestiche, che sono legate per lo più al consumo di cibo, ma anche, come dicevi, alle pratiche del do it yourself, dell'autoproduzione, così come dello scambio e del baratto. Evoluzione del social eating e del home restaurant, il ristorante a casa, è Gnammo, il social eating network italiano, che trasforma le case in contenitori speciali di pasti altrettanto speciali, unendo all'esperienza del buon cibo casalingo quella socializzante e conviviale, e non da ultimo la voglia diffusa delle persone di cimentarsi ai fornelli. Quindi cuochi amatoriali che allargano le consuete cene con gli amici, anche a sconosciuti, in cambio di un piccolo contributo per le spese sostenute. Gnammo organizza colazioni, pranzi, cene, aperitivi, è un social network, ci si può iscrivere sia come cuochi, e quindi ovviamente senza essere dei professionisti si diventa l'organizzatore e chi cucina, oppure ci si iscrive come gnammer, appunto chi mangia. Altro caso interessante che anticipavi, il fenomeno è internazionale, case private che diventano aggregatori sociali e locali quasi pubblici. Sto parlando di Hidden Kitchen Supper Club, la cucina casalinga segreta dove andare a cena in tutto il mondo. Funziona così: si mette allo stesso tavolo, spesso quello di casa propria o di amici, gente sconosciuta. Poche le raccomandazioni di base per gli ospiti, puntualità ovviamente, educazione, socievolezza, e non guasta mai portarsi una bottiglia di vino. E anche i ristoranti diventano case per una sera, affitto aspettano nel giorno di chiusura del locale le loro cucine a chi abbia voglia di cimentarsi per amici o parenti, proprio come quando li si invita a casa. Opzionale è l'affitto del cuoco titolare, della brigata di cucina, dei camerieri, e si può scegliere per esempio anche se comprare da soli gli ingredienti e il vino o chiederli al ristorante. In Italia abbiamo i primi casi, mentre queste esperienze all'estero sono già una pratica consolidata. Per esempio il bistrò parigino La Table de Claire è stato tra i primi a far entrare i clienti nelle sue cucine. Il caso è molto noto grazie anche a un libro che ne racconta l'esperienza, dal titolo Moi, chef d'un soir, io, chef per una sera. E intorno a una casa occupata, ruota la trama di una delle commedie di questa stagione cinematografica, Tutti contro tutti, di Rolando Ravello. Non riesco, non capisco, non saprei. Perché improvi a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dentro, che non la senti la musichetta? Stanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo un regolare affitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no, ecco, tutto qua. Ma perché qua sta urlando lei? Non ho capito. Questa ma casa sua, qui. Tra l'altro le manco ce l'ha più casa sua, no? Io ti dico subito che in macchina non ci dormo. Ma me fa finire parlare. Se tu pensi che io, hai la mia, mi metto a dormire in macchina, ti attacchi proprio per cominciare per cazzo. Io sono vecchio, voglio dormire in un letto. No, no, non l'ho mai detto di dormire dentro una macchina, basta, ma che ci senti te? La mia soluzione è un po' meno estrema e soprattutto è l'unica che ci consente di rimanere tutti insieme. Sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. E quando, papà? Stanotte. Patrizia, casa anche come cibo fatto in casa, dicevamo poco fa, l'autoproduzione, i cibi casalinghi sono tornati molto di moda. Sì, la casa è il regno del do it yourself, dell'homemade, dal pane ai formaggi, all'autoproduzione per esempio non solo di vegetali, con gli orti fuori dentro casa, sul tetto, nei vasi in cucina, eccetera, ma anche per esempio di uova, grazie ai monopollai come quello del marchio inglese Nogg per allevare una gallina sul balcone. Il micropollaio è un bellissimo contenitore in legno a forma di uovo con un unico difetto che è il prezzo, 1.950 sterline, che ahimè disconferma la mission di questa azienda che dichiara di voler incoraggiare l'allevamento domestico. Ma anche settori quali la detergenza della persona e della casa non sono immuni da questa pratica autoproduttiva. Ci si fa per esempio il detersivo per la lavastoviglie, per la lavatrice, per i piatti, saponi e shampoo da usare per sé o da regalare. E dal fresco alimentare, frutta e verdura che già si acquistavano dai coltivatori diretti, per esempio nei farmer market alle porte delle città, ora le cascine dei produttori o da diversi mercati agricoli ci sono le consegne dirette a domicilio settimanali. Cortilia è una delle start-up di servizi di vendita diretta di prodotti locali con acquisto online e consegne personalizzate a casa, attivo per ora solo a Milano, ma altri sono i casi a Brighton, per esempio nel Regno Unito. Catchbox è un servizio simile dedicato in questo caso esclusivamente al pesce fresco, pescato ogni settimana. I due casi sono accomunati da uno stesso modello di servizio, cioè il consumatore non ha la scelta né sul tipo di verdura né sul tipo di pesce, ma solo sulle quantità. Anche per Cortilia infatti è così, si seguono le stagioni, cioè quello che la terra e il mare offrono in quel momento. E la casa è il posto perfetto per un try before you buy, cioè per fare le prove prima dell'acquisto. L'esperienza delle prove in casa è un pezzo chiave, per esempio, del modello di business di Warby Parker, un marchio inglese che vende solo online e fa indossare 5 paia di occhiali in prova a casa, così come di OK, che è un brand di gioielli di lusso, in particolare vende anelli di fidanzamento con solitario in diamante, che unico caso in questo mercato di alto di gamma propone il servizio try on at home, cioè invia un corriere a casa delle potenziali acquirenti che hanno ben 6 modelli diversi da provare fino a 5 giorni prima dell'eventuale grande decisione, il tutto senza impegno d'acquisto. Secondo Univendita, l'Unione Italiana Vendita Diretta a Domicilio, questo del porta a porta, diciamo così anche nella versione digitale, è un settore in grande espansione. La casa è stata e continua ad essere un luogo dove si vende bene. Colpisce anche la nuova tendenza dei viaggi di nozze. Le vendite a domicilio della luna di miele hanno registrato una crescita nel 2012, anno molto difficile per il turismo in generale, di un più 10% rispetto all'anno precedente. La chiave del successo è molto semplice, è la personalizzazione. Per una stessa meta di viaggio vengono proposti diversi budget di spesa in base alla disponibilità, ma non solo. Dalla destinazione alla categoria degli alberghi, ai mezzi, alle escursioni, insomma ogni momento della vacanza è ritagliato sui clienti. Anche nei locali pubblici si può notare come la domesticità sia un elemento differenziante che è percepito come di valore dai clienti e dai consumatori. Faccio un esempio di un locale milanese di recente apertura, Pavé, un soggiorno con caffetteria autenticamente accogliente come una casa, con questo sottotitolo: resta a casa, vieni da Pavé. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo negli Stati Uniti sui consumi domestici? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio. In un futuro neanche tanto lontano, di un mondo sempre più sovraffollato e spazi domestici sempre più ridotti, la casa sarà anche il luogo in cui autoprodursi gli abiti. E questo infatti che promette di fare Clothing Printer, il concept di una stampante 3D elaborato per Electrolux dal designer Joshua Harris. Comodamente appesa al muro come un quadro, questa stampante, dotata di un'interfaccia touch, permetterebbe di collegarsi alla rete e scaricare i modelli e gli indumenti dei brand preferiti, personalizzarli e mandarli in stampa. La macchina infatti memorizzerà stoffa, colore e taglio e stamperà l'abito in tempo reale, grazie a cartucce che, anziché inchiostro, conterranno il filato, quindi il cotone, la lana, la seta, del colore desiderato. Ma non è tutto, perché una volta dismessi, gli abiti potranno essere reintrodotti nella stampante, che li ridurrà nuovamente infilati, pronti per essere riciclati, evitando così ogni spreco. Questa sorta di atelier domestico non solo ridurrebbe drasticamente la necessità di conservare gli abiti, ma potrebbe anche ridefinire l'intera filiera produttiva della moda. A stilisti e aziende, infatti, basterebbe mettere in vendita i modelli digitali e le cartucce con i materiali, abbattendo così costi e impatto ambientale di spedizione, distribuzione e smaltimento. Grazie Alessia. Patrizia, siamo in conclusione. Quanto resterà centrale la casa nelle nuove pratiche di consumo e di vita? Ma lo sarà sempre di più, proprio perché, come dicevo, un luogo aperto che filtra le esperienze esterne e diventa anche la scena che rappresenta le nuove tendenze, non solo estetiche, espressive, ma proprio lo specchio delle pratiche, dei comportamenti delle persone comuni, così come nuovo punto chiave per modelli di business emergenti. È tutto anche per questa settimana. Se vi siete persi qualcosa, se volete dirci qualcosa, c'è il sito di Radio 24, c'è la pagina Facebook di Essere Avere, oppure la mail essereavere@radio24.it. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.